Oh, ciao Toto, siamo tornati in diretta. È bello quando tu mi chiami in questi modi così carini. Ma ti così, prego, siamo vicini a Pasqua, quindi che... Sì, Andrea, ti prego, sto sentendo un manicomio. Comunque ci sono persone che si lamentano perché non ci sentono da radiocentrale.it. Temo dovresti andare andate tutti... su politeia.it, www.politeia.it. In alto c'è Ascoltaci in Radio. Il presidente dell'associazione che è qui davanti, così si vanta. Intanto il presidente dell'associazione dà la chiave del bagno, che credo sia il suo lavoro più importante. E purtroppo la chiave del bagno non ce l'abbiamo. Quindi purtroppo niente bagno. Ciao, salutiamo il chitarrista che va in bagno a espletare. Se non c'è, non c'è il bagno, non c'è, insomma, andrà fuori al bar qualche parte. Comunque parliamo subito del primo argomento, così fuoco importante: prevendite flop. Non dire fuoco, che per ora non è il caso, non è la situazione internazionale. Sì, c'è un po' di fuoco ovunque, ma io sto parlando di una notizia proprio di quelle ansia, una notizia ansia, sì, che ti fa preoccupare. Prevendite flop per il concerto di Mariano Apicella, venduto un solo biglietto. Pare che non sia stato lui, tra l'altro, ad acquistarlo. Tristissimo, come quelli che si candidano alle elezioni e hanno un solo voto, addirittura zero. Quindi concerto di Apicella annullato. Guarda, se vi guardate un attimo la webcam, no, poco fa, sì, sembrava vi baciavate mentre parlavate. Sì, è molto bello, molto bello. L'amore saffico, l'amore saffico. Saffico? muoviti. Come ma come? Non siamo due donne. Però capito, chi lo sa? L'amore saffico. Lo dici tu questo? Questo lo dici tu. È la tua parola contro la mia. Sapete cosa ha detto Apicella? Che non voleva mettere a repentaglio la sua figura di professionista esibendosi in questo momento. Roba da far rizzare i canne dal primo uomo che ha provato a suonare una padella fino ad arrivare a Beethoven. Finalmente uno dello staff del cavaliere che poteva cantare, compa, ti rendi conto? Finalmente qualcuno che canta e noi ci siamo persi la possibilità di sentirlo. È vero. Non ci è andato, niente concerto. Ma sempre un'altra notizianza, gli immigrati arrivati a Lampedusa. Non si sente, come? Gli immigrati arrivati a Lampedusa hanno detto: in Tunisia non si può parlare liberamente, come stiamo facendo ora. Si vede che sono appena arrivati. E intanto ascoltiamo un attimo un pezzo di Apicella e del presidente. Gran momento di Gesù, Gesù, quando siamo qua, sono qua, sono felice con tu man. Esatto. È quello il testo della canzone, li vediamo felici a Sardegna, compagno. A Sardegna, comincio, esatto, ad avere dei problemi sì. Molto, molto seri. I due musicisti, come diciamo, si stanno preparando, ci suoneranno alcuni pezzi dal vivo, non so bene quale sia la scaletta, non mi è dato a conoscerla, qui tutti tacciono. Andrea nel frattempo non so cosa sta combinando, ma attenzione, parte qualcos'altro che non c'entra però assolutamente nulla, perché c'è il presidente. C'è Apicella da qualche parte? Sì! No, niente, è un blob. Bene, Totò, sì, hai sì, trovato sì, una delle cose più scadenti del web. Ma è bellissimo, perché scusa, il blob è eccezionale, è una genialata che va avanti da 20 anni. Assolutamente, quindi. Sì, ma tu non puoi mandarmi il blob se parliamo di Apicella. Andiamo avanti. Ok, scusate, continuano ad arrivare i soliti commenti sul profilo Facebook dell'Onda in Onda, tutti contro di te, Antonio, perché dicono non solo il tuo dolce vita fa cagare, ma soprattutto che non puoi ballare a Villavigne. Bordino poi ci esorta a dire di mettere sui 97.5, ma non avrebbe senso, dato che chi sta ascoltando o è già sui 97.5 o è in streaming. Quindi Bordino lo chiamavano l'aizzatore di folle inutile, praticamente superfluo, come i peli che cadono sulla giacca di Toto Scaccia. Esatto. I peli pubblici che cadono sulla giacca. Quindi c'è proprio una gravità al contrario. Esatto. Cioè, risalgono e piovono peli. Diciamo. Ricordiamo anche a chi ci dice che non riesce o a sentirci o a vederci o viceversa, che se non riuscite a collegarvi o tutte e due le cose, tutte due le cose andate su politeia.it, politeia.it, no, e vi cliccate in alto su Ascoltaci in Radio. Addirittura vi scriccate in alto. Dopo che hanno fatto palestra si scriccano. Scricchiano. Comunque un'altra cosa molto importante, non so se sai che come ogni anno, anzi forse ogni due mesi, perché mi sembra che si parli sempre di questo, la città più vivibile del mondo nuovamente è la famosa Vancouver. Infatti Vancouver, ci vanno tutti quando dice vai a Vancouver perché c'è il clima più vivibile. Ma va a Vancouver. A proposito, Toto, tu sai da quanto tempo ci sono i romani a Cortina? Da un pezzo. Totò, dai, cioè, la tua mente ci è arrivata prima della tua parola. Tu non sei riuscito a parlare, incredibile. Va bene. Totò, come mi va? Prego, andiamo avanti. Ti vedo che stai male. Sì, ho un mancamento. No, invece è una storia incredibile, vi devo dire. Prima di lanciare il prossimo pezzo, che mi pare che sia ormai aspettato dagli ascoltatori, all'angolo di una strada è stato messo alla berlina, quasi fosse un criminale, con un cartello appeso al collo. Lo sapete di chi stiamo parlando? Di un ragazzino che aveva brutti voti a scuola. E la madre gli ha detto: mettiti lì all'angolo della strada, in Florida, non ricordo adesso la città. E James dovrà esibire, questo è il nome del ragazzo, ogni giorno un cartello in cui confessa. No, senti l'intelligenza dell'operazione. dichiarazione della madre, in cui confessa di essere un somaro e chiede nel cartello, c'è il video su Repubblica TV, roba da rizzare i peli, suonate il clacson se ho bisogno di un'educazione. Perché la gente dovrebbe suonare il clacson? Magari c'è quello davanti, il vecchietto che sta passando, lo ammazzano, lo falciano. C'è qualcosa di veramente cretino. Io a proposito, dopo il pezzo racconterei un aneddoto mio e tuo, Andrea, visto che eravamo compagni di scuola. Un aneddoto che risale forse alle elementari. Sì, qualcosa intorno alla seconda elementare. Ma prima lanciamo il prossimo pezzo. Lo lanci tu o lo lancio io? O ci lanciamo insieme? No, lo lancio io e lanciamo Kick-Ass. Aspetta, perché non si sa perché. Il del comunismo accolse per la prima volta nelle acque del Mediterraneo navi da guerra russe che trasportavano l'ospite Vladimir Putin. Sì, ma ti prego, Toto, non puoi... Scusami, ma perché questa cosa? Sono dei discernimenti storici che vogliamo dare ai nostri radioascoltatori. Va bene, noi ci ascoltiamo invece adesso un pezzo di quel gran maschione di Mika e Kick-Ass. Non si sente... Antonio, non ti sei sentito? Ci ascoltiamo un bel pezzo di quel gran maschione di Kika, di Mika, e il titolo è... Kick-Ass. Stasera siamo tutti fusi. We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool, we are free, and we're running with God on our knees. Open stream with a crash and burn. We can make it better. Turn it upside down. Just you and me. We have a dream. No other way. Entriamo, bene, allora abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo di Mika, Kick-Ass, che come sai viene da è la colonna sonora di un film che finalmente esce anche in Italia, che è la storia appunto di un supereroe senza superpoteri. Non ne sapevi niente? No, davvero un bellissimo film, però lo dobbiamo salutare. Sì, e vi diamo appuntamento dopo la pubblicità con Alessio Meschino e... Giovanna Filice, li sentiamo dopo la pubblicità, a dopo! Non è facile, sai, se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. Riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè. Troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia. E vedrai un altro me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. Come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di te. Eccoci tornati in diretta, abbiamo ascoltato Rafael Gualazzi, il giovane vincitore di Sanremo Giovani, appunto nove proposte, e direi che è veramente un ragazzo in gamba, cioè stranamente quest'anno tra Roberto Vecchioni e Rafael Gualazzi direi doppia R. E vabbè, vuoi mettere la risa, dico. Sì, vabbè, ma lascia stare a risa. Io dico, ti immagini avesse vinto. L'anno scorso fra le giovani proposte c'era risa. Sì, ma ti immagini avesse vinto Albano, per esempio. Fra le giovani proposte. Sì, no. Con Amanda no. È libera. Cioè Amanda, beh, come si chiama? Amanda Lear che dice Nox. No, quello Amanda che Nox. So benissimo, che saluta. Che da un po' che non siede in giro. Andrea, che ne pensi di questo Rafael Gualazzi? Ma ne penso che è un ragazzo bravissimo che tra l'altro, prima di vincere Sanremo, noi avremmo voluto trasmettere, ma purtroppo la puntata è saltata e avremmo fatto una bella previsione trasmettendolo come possibile vincitore. Ma siccome con i sei non si fa il mondo, abbiamo fatto una figura di merda. Ma comunque andiamo avanti. E allora, dopo aver sentito tanta bella musica, insomma, avrei la vita. Io però dovrei dire una cosa importante per un nostro radioascoltatore che ci ha fatto una richiesta, Totò. Sì. Allora, Totò, la tua richiesta sarà espletata nel più breve tempo possibile. Che bello, mi sento alla posta. Due nostri radioascoltatori, perché ecco, anche un due. Nostro caro ascoltatore Fabio ci ha chiesto un brano che noi gli metteremo subito dopo aver ascoltato però i nostri ospiti che sono qui in radio. Esatto, io colgo intanto l'occasione per salutare Domenico Massaro, un diciamo quasi omonimo del mio amico conduttore, nonché mio collega di medicina. Che ci sta ascoltando, ma è il momento, come direbbe qualcuno, ciancio alle bande. Ma abbiamo qui Alessio Meschino e Giovanna Felice, quindi direi intanto un applauso perché sono qui. Perfetto, allora potete parlare, comincia ovviamente la donna. Alessio, non guardarmi male, so che anche tu hai delle tendenze strane, però prima di tutto parlerà la tua amica. Vai Giovanna, allora presentati, dici un po' chi sei. Siamo Giovanna Felice. Perfetto, ho sbagliato quindi l'accento, fantastico, guarda, grande inizio. Tanto la gente dice Felice, quindi vabbè, se eri comunque solo buona strada. Io sono Panzica, ma mi chiamano tutti da sempre Panzica, quindi abbiamo questo destino infame, un giorno mi impiccherò. Potresti fare no, no, io ti chiamo anche cretino, poi dipende, insomma la gente liberamente purtroppo sceglie. Come vedi abbiamo un direttore di puntata, chiamiamolo così, un deficiente lì dietro il vetro. Sì, sì, ti piacerebbe. Se fossi da questo lato del vetro non faresti più tanto il cretino. Ora giro. Prego Giovanna, dici. E niente, diciamo, la musica è la mia più grande passione, la pratico da quando ero veramente bambina. Sì. E da poco tempo ho incontrato Alessio e ci siamo trovati in questa esperienza. Attenzione, perché mentre ha detto ho da poco tempo incontrato Alessio, ci siamo trovati la fidanzata, che i nostri ascoltatori non possono vedere, da dietro il vetro, e sono spuntate le corna ed è diventata Super Sara di quinto livello. No. Dopo il Super Saiyan. Ma se vuole può intervenire, dici. Sì. qualcosa. Sara, puoi presentarti almeno al microfono? Hai un microfono, la gente ti sta ascoltando. Sara fa segno, fa che segno mi vuole di bene, morte, mi di vuole... morte. Sì, sì, sì. Insomma, quindi è da tanto che canti. Sì, sì, sì. Quanti anni hai, se posso chiederlo indiscreto? 28. 28, vedi come ha risposto subito Andrea, che ne pensi della sua età? Ma che, vabbè, sono vabbè, contento. Ma sono le vecchie baldracche che non vogliono dire la verità. Esatto, esatto, esatto. È una minchia quella di dire no, perché non è fine dire l'età. Esatto. È perché hanno 80 anni, tutte tirate. Tutte tirate, qualche esatto. giorno gli diamo pure l'orecchio, tipo. Esatto, esatto. Allora, invece la parola velocemente ad Alessio. Buonasera. L'anno scorso c'era venuto a trovare per una grande rivisitazione di un pezzo di Jovanotti. Sì, mi ricordo che appunto Jovanotti era venuto ospite qui a Radio Centrale. Ma sì, perché ogni tanto lui passa, perché lui lo sa che eccolo. Non è solo anche quando è solo. Prego Alessio, dici. Prego, che vuoi sapere? Ma voglio sapere perché sei qui, perché suoni sono la chitarra qui. Perché sì. sono la chitarra. Veramente l'ho invitato io, cioè, quindi... Allora, già... più che altro siamo qui perché ci ha invitato Andrea. Altrimenti avresti fatto altro. Se non aveva il tuo di bridge. Assolutamente, è un grande piacere venire qui. Insomma, tanto è vero che abbiamo preparato un po' di brani che nel sì. corso della puntata vi faremo ascoltare. Volete indicarmi subito con quale cominciamo? Tattà, me lo indichi così magari lo presentiamo noi. Sì. Ah, iniziate proprio con proprio questo. Proprio con questo, sì. Va bene, allora signori, visto che siamo che in bel terra... momento di radio, devo dire sì. eccezionale. Siamo in meno male che ci sono loro che salvano la faccia alla puntata. Esatto, esatto. E soprattutto cancellano la tua brutta faccia. Allora, siamo io non qui... mi sono ancora visto. Si è vista la tua. Ragazzi, siamo qui, siamo siculi e ascoltiamo un pezzo della cantantessa per eccellenza. Ma... Carmen Consoli. Cantatessa. Il pezzo è. Sì, hai detto la cantatessa, è un cretino. Vabbè, la radio ha 30 anni e non sa neanche. Vabbè. Ma che devo sapere? Ascoltiamo Confusa e Felice. Benissimo, che una goccia in onda in cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto adesso, è così piccolo, il mare che ci ascolta. Che ci addormenta, vorrei tentare, vorrei offrirti le mie mani, vorrei tentare, ancora vorrei difendere questo momento, e penso di sentirmi confusa e felice, e penso di sentirmi confusa e felice, e penso di sentirmi che sto tremando e non c'è freddo, e sono vittima di questa gioia immensa. Sai benissimo che nulla può scalfirci adesso, è così fragile il mondo che ci aspetta, che ci spaventa. Vorrei tentare, vorrei offrirti le mie mani, vorrei tentare, ancora vorrei difendere questo momento, e penso di sentirmi confusa e felice, e penso di sentirmi confusa e felice, e penso di sentirmi confusa e felice, confusa e felice, confusa e felice, confusa e felice, confusa e felice. Sai benissimo che una goccia inonda il cielo, è così piccolo il mondo che ci osserva. Ragazzi, un applauso grandioso. Cioè, se prima mi ho fatto l'applauso di presentazione, complimenti a tutte e due. Grazie. Cioè, lui lo conoscevo e quindi è sempre un rinnovare la sorpresa. Tu non ti conoscevo, quindi è una sorpresa assoluta. Andrea, la pensi come me? Dimmi un po'. Ovviamente gli fanno anche gli applausi virtuali, insomma, da Facebook. Grazie, grazie mille. Sempre nel nostro profilo, e tutti quanti commentano positivamente l'esibizione. Bene, bene, sì, applausi un bacio anche tutti loro. Da qui arriva. Avete passato il test, adesso siete pronti a essere giudicati da Maro Maionchi, qui accanto a me, Massaro Maionchi. Posso dirti una cosa? Non so se, magari sai, quando parli con i cantanti, con queste cose devi stare un po' attento. Sì. Però la tua voce, mi sembra, non credevo esistesse, l'esatta via di mezzo, non sto scherzando, della timbrica e della tecnica tra Elisa e Giorgia. Cioè, c'erano... No. Davvero, scusate. Allora, non sei il primo. Ma loro ridono perché non sanno nulla di musica. Lui mette canzoni e manco sa chi sono. Ma chi te l'ha scritta sta frase? Stai zitto. Lui in realtà mi conosce. Compagni di asilo, noi ricordati che dobbiamo raccontare. Ma perché mescano ogni tanto se ne esce con schitarrate da solo? Bello, ci stava come intermezzo. No. Grande meschino. Va bene, quindi abbiamo ascoltato i... Avete un nome, scusate, come duo? Sì, Giovanni e Alessio, sì. Bello perché c'è l'eco, no? Lei ripete la cazzata detta dal chitarrista. Però l'eco è femminile, La prima è maschile, l'eco è femminile. Riproviamo, quindi come vi chiamate? Giovanni e Alessio. Incredibile, guarda, il primo caso di transessualità soltanto per via vocale, meraviglioso. Va bene, a proposito di canzoni, di brave cantanti, hai sentito Anna Ox al festival? Per fortuna no. Io sì, e non ho capito più se eravamo collegati col festival della canzone albanese, perché non si capiva realmente nulla. Ma chiedo... tu lo sai che lei è albanese? Dico, non per scherzare. Veramente? Sul serio. Allora, ecco perché... Lui non conosce la metà dei cantanti, però sa che Anna Ox è albanese. Allora. Cioè, è un uomo... Andrea intanto si perde nelle U. Senti, tu che ne pensi di Anna Ox? L'hai sentita al festival? Da cantante non ho seguito il festival. Da cantante ecco non qua. Ha seguito il festival. Questa è già lo una so bella... frecciatina. Discendenza però... albanese. Lei si chiama Iliriana Hoxha. Attenzione. Ma guarda, quando cantava, sai cosa ho sentito? Che cosa ha detto? È napoletano, cioè... cos'è? Sì, no, era un misto tra la sceneggiata napoletana e quella albanese. Io immaginavo. Comunque continuano i complimenti sempre sulla pagina di Facebook, vi dicono bravi, bravissimi, complimenti, insomma, qua notifiche infinite. Alcuni non li conosci, tipo Salvatore Fasone, non so se lo conosci, noi intanto abbiamo dato il suo nome e cognome, così chiunque può aggiungerlo, ma in fondo se vai nella bacheca dell'Onda in Onda te ne accorgi già da lì. Va bene, e volevi parlare tu di qualcosa? Attenzione. Ah, sì, sentiamo un attimo il festival della canzone albanese con Anna Ox. Una merda. Non si voglio dire una merda o una merda. No. Io ho il dubbio, io la riscriverei. Vabbè, qui si è capita. Da un punta. Chi cosa ha visto la mamma in prima fila un punta? Ah, ciao! E si è girato. Qui comincia ad aggravarsi. Ma il ritornello, guarda, è clamoroso. Sì, ora lo canticchio nella doccia. Un pitto merdato rionale. Ogni volta somiglia. No, perché loro in Albania la Cina dicono D. Scusa, perché ha in testa la parrucca che si trova a carnevale? Cosa sta dicendo? Urla! Comunque 70 anni portati dalla grande. Benissimo. Devo dire... Il discorso di prima, infatti. Sì. Qual è il discorso di prima? Il discorso dell'età. Esatto. Non credo che qualcuno lei ha detto 70 anni, sì. Come tu hai avuto il coraggio di dire 28, ma tu sei più coraggiosa di lei. Qualcuno mi dà di più però. Sì? Quanto? Scusa, ascolta, no, intanto parlare del 61. Scusate, comunque. Dire qualcuno, scusate un attimo, dire qualcuno mi dà di più in periodo hardcore e bunga bunga. Quanto ti hanno? 10.000 euro per una canzone? 10.000 euro per una canzone? Non me l'hanno mai dati 10.000 euro per una canzone. Giovanna ruba cuori. Abbiamo qui Giovanna ruba cuori dopo Ruby qui in diretta. Senti Andrea, volevamo raccontare quella storia. Ma Andrea è sottotono proprio. Sì, totalmente. Cioè, no, non è vero, io sto interagendo col profilo dell'Onda in Onda, quindi ragazzi... Ah, esatto, c'è una nostra amica che vorrebbe telefonare. Il numero, lo ricordiamo per tutti, è lo 091-811-0089. Andrea, vogliamo raccontare a proposito di scuola, magari a qualcuno gliene può fregare di meno, però noi lo raccontiamo comunque, di quella volta in seconda elementare quando è uscito tutto il nostro affetto, ce lo siamo comunicati con un gesto? Vabbè, allora, diciamo che quei tempi, come adesso, ero pazzo. Purtroppo Antonio aveva delle tendenze molto alla vendola, diciamo, omosessuali, esatto. Sì, eravamo in fila nella scala, per scendere le scalette in fila indiana, e lui si girò dicendomi: io ti amo. Io non ho accettato molto questo fatto, e l'ho gettato dalle scale. Mi ha letteralmente spinto giù dall'ultima rampa di scala. Ecco la faccia di Totò che ascolta questo, lo potete vedere su politeia.it. Io ho fatto rotolando tipo Cambola di Hook Capitoncino, non so se ricordate, tutte le scale. La maestra è diventata del colore delle pareti e ha chiesto ad Andrea, perché lo hai fatto? E Andrea ovviamente ha risposto: perché mi ha detto ti amo. E la maestra, riprendendo piano piano colore, vedendo che ero ancora vivo, dice: e se ti avesse detto ti odio, vaffanculo, come avresti reagito? Su questa domanda io e Andrea cambiammo classe, cioè io sono rimasto nella mia sezione e lui cambiò scuola. Ma questo per dirvi, se volete raccontarci qualche aneddoto vissuto alle elementari potete sempre interagire. Però alle elementari, alle elementari. Guai a voi se è l'asilo, scuola elementare, o no, media. Alle elementari. Alle elementari. Alle elementari. Appunto, tutti gli anni, anche del liceo, anche ieri può essere accaduto. Ai più giovani, diciamo, se vi è capitato alle scuole primarie, ecco, esatto, diciamo così. Anche alla ventottenne, se l'è capitato nell'università della terza età, magari negli incontri alle 6 di sera per i bridge, anche lei come il buon Alessio. Dimmi Andrea, vedo che la tua mano è un po' parkinsoniana, che vuoi dire? Sì, perché vorrei intanto lanciare un brano dedicato appunto a Fabio. Ah, quindi anche tu ora fai dediche. Faccio dediche, vabbè. Sì. Ci ascoltiamo Let's Dance di David Bowie. Ci sto. Ora va. If you say run, I'll run with you. Bene, allora abbiamo sentito. Ce l'hai sotto il foglio? Oh, non trovavo il microfono, non era facile. Era sepolto dai fogli. Allora abbiamo chiesto di raccontarci delle storie. Invece di chiamarci, qualcuno ce l'ha scritto in bacheca. Sì. Il buon Salvatore. Tra pochissimo ci chiamano anche al telefono. Attenzione. Perché abbiamo ricevuto una telefonata. Ma la telefonata la riceviamo adesso o dopo? Appena squilla. Va bene, ok. Allora Salvatore ci dice che alle elementari, in un momento di cannibalismo. Attenzione, squilla il telefono. Eh beh, sì. Pronto? Aspetta un attimo. Sì. Pronto? Pronto? Pronto? Ci sei? Pronto? Pronto? Sì, io non sento nulla. Assolutamente non pronto? Sento. Pronto? Eccoci. Pronto? Antonio? Ciao Valeria! Aspetta un attimo, Antonio? Aspetta un attimo. Sì, però lei non mi sente, mi sa. Io sì. Io ah, sì. Tu ci senti? Allora perché io dico Antonio? Ciao Valeria, tu dici Antonio. Lo senti l'Antonio? Sì, sì, Anto. Ciao Valeria! Come va? Tutto a posto! Finisce qui, sì, ecco, tutto a posto. È la no, non ti sento, non ti sento. Non mi sente, questo va è il bene. Problema. Niente, purtroppo puoi dirle che se ne va a quel paese. Dille che se ne va a Vancouver, tanto è molto vivibile come città. Allora, vai a Vancouver, mi ha detto. Pronto? A Vancouver. A Vancouver. Appena lo vedi uccido. No, lui ti sente, sei tu che non senti lui. Io purtroppo ti sento. No, io non lo sento. E l'ho capito, se non mi senti non è un problema. Vabbè, chiudi. Uno dei momenti peggiori di radio degli ultimi 30 anni. Intanto no, ma la cosa bella è stata comunque. Sta succedendo. Comunque, la cosa bella è stata comunque che Andrea ha sofferto i suoi timpani. Sta succedendo di tutto. No, no, è un problema. Vabbè. Comunque, dicevamo sì, che all'elementare, in un momento di cannibalismo, Salvatore racconta di aver dato un morso sulla schiena a un compagno insopportabile che gli fece girare le palle più del solito. Aggiunge, però, nessuno di noi due cambiò classe. Un finale che presume, insomma, che lui abbia una brutta visione di me, Andrea. Dimmi, Andrea. No, io volevo dire che non ho più le orecchie e che questa è la prima volta che qualcuno telefona e succede un casino. Era forse l'annuncio, dato quello che abbiamo sentito, che più tardi ci sarà feedback. Esatto, perché... esatto, perché il feedback è stato pazzesco. Va bene, ma noi siamo qui con i nostri amici Alessio e Giovanna, che sono pronti a eseguire il secondo pezzo di questa bellissima scaletta che hanno preparato per noi. Ci trasferiamo nei ristoranti americani con Amy McDonald e la sua This Is The Life. The whiskey town, they could dance straight tonight, and the people were dancing to the music fine. And the boy just a girl with a cousin hair. Why the shock of too many see way over there? The song and leather, it's one better than before. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and you had a feel this right. This is how we're gonna go, gonna go. We're gonna sleep tonight. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and you're all up in a twice. You gotta go, we're gonna go tonight. Oh, we're gonna sleep tonight. Yeah, yeah, yeah. So you're heading down the road in a taxi 4-4. You're waiting outside Jimmy's front the door, but nobody in and nobody's still in for. So you're sitting there with nothing to do. Oh, talking about operation on this whole crew. We're gonna go, we're gonna sleep tonight. And I'm singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head a fit is twice. Where you gotta go, where I gonna go, where I gonna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your heart a fit is twice. This time just gonna go, where I gonna go, where I gonna go, no sleep tonight. I am done. We're not gonna sleep tonight. We're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, we're gonna go, let's live tonight, yeah, hey, hey, yeah, yeah, we're gonna go and sleep tonight. E io vorrei fare di nuovo l'applauso a questi due. Sono appena venuto da Massaro, partecipa. E pirla. Comunque questo programma c'ha qualcosa di strano, tiene qualcosa che non capisco, perché ci stavano due bravissimi musicisti e Massaro che si va perdendo con le donnine su Facebook. C'è il bunga bunga, però l'ha preso di brutto. È una cosa veramente incredibile. Comunque complimenti davvero, perché a parte bravi, insomma, bravi, bravi, bravi. È passato anche Pino Daniele a farvi complimenti, non era una cosa facile. Sì. Complimenti, anche questa molto bella, ci ricorda comunque che non dobbiamo mangiare troppi hamburger, che di Annie McDonald, che dice chi sei a vita? Cioè, te lo sta dicendo proprio col titolo della canzone, non mangiare perché ingrassi come un buino, che è una fusione tra va bene. Andrea, sentiamo la tua voce. Andrea, dai, vuoi dirci qualcosa? Dici magari qualcosa di intelligente. No, perché ci hanno beccato in webcam, che stiamo facendo vedere ci hanno beccato, cioè lo ha fatto ti lui. Hanno beccato che facevi il porco. Esatto. E si chiedono cosa mai stessi facendo vedere alla regia sul computer. E tu gli hai detto uno strumento era... Non è uno strumento, sto facendo vedere il nuovo campo di bocce che stanno costruendo al Bragone. Ah, ecco. Dove appunto c'erano i cavalli, ci sono ancora, sono diventati femmine, però sempre ci sono i cavalli. E quindi discutevamo su questo campo che secondo me sa da fare molto. Comunque Antonio, tu volevi parlarci di salutiamo la ragazza di Andrea se ci sta ascoltando. Anche alla ragazza di Antonio che purtroppo subisce. Ciao Sonia, ma è Andrea che è una cosa veramente inutile. Va bene Antonio, tu volevi parlarci di un evento che è successo in quel di Lecce, diciamo. Non proprio, più o meno. Non so se avete saputo che a largo di Frigole o Frigole, perché stasera non azzecco un accento, quindi magari lo chiamo Alessio Meschino, che non è bello come cosa. Insomma, a largo di Frigole, cittadina a pochi chilometri da Lecce, una settimana fa dei pescatori hanno avvistato uno squalo di circa 6 metri. Hanno avuto la prontezza di filmarlo. La cosa bella è che si sente proprio il loro commento in sottofondo, che dicono: è enorme, chi te mort, guardate grand, 6 metri, quando la berk. E inquadrano questo squalo per un 10 minuti circa, il video sta spopolando, e continuando a esclamare: è enorme. Ora, siccome noi non sappiamo bene cosa intendessero, anch'io esclamavo, però poco fa non c'è un video che lo testimonia. Sì. Il campo di bocce era enorme, davvero. Sì, sì, enorme. Ma noi abbiamo un'esclusiva. Ce l'hai una musica tipo qualcosa di tetro, drammatico, qualcosa del genere? Perché noi abbiamo in diretta il diretto interessato, quindi credo che ci vuole minimo una musica di circostanza. Magari lo facciamo intervistare da Giovanna Felice, insomma, vediamo un po'. Ragazzi, dopo essere stato avvistato, dopo essersi sentito dire enorme, enorme, abbiamo il piacere, e lo intervisterà Andrea, ovviamente, se smette di guardare, anzi no, lo intervisterà Totò, abbiamo il piacere di avere in diretta negli studi di Radio Centrale FM Italia lo squalo di Frigole. Come lo squalo? Sì, c'è lo squalo, quindi io vado un attimo a chiamarlo, passo la parola a te Totò, dobbiamo capire anzitutto perché dicevano enorme, prego Totò. Pronto, pronto! Vediamo se... l'abbiamo al telefono, credo, perché fuori dall'acqua non lo posso... Ma che era? 500? Che cos'è? 127? Cos'è? Chi te è mort? Pronto? Chi te è mort? Ma che fai? Che significa? Mi scusi, non capisco. Odine, in romanesco si dice le mortacci tu. Ma mi scusi, ma lei chi è? Ma si presenti, si qualifichi! Io sono lo squalo. Come sono lo squalo? Io sono lo squalo. Ma lo squalo, veramente, proprio in carne, ossa e denti? È molto dentro, come non farò un cretino, perché con presente Napoli e fare un cretino. Cacchita è molto. Ah, lei ci segue? Ogni tanto vi siete da sott'acqua. C'è l'antenna. Ho capito, c'è l'antenna a mare. L'antenna sube. L'antenna sube. La famosa antenna a mare che ci fa lui, lei, ecco. Cioè, esso, l'antenna sott'a mare. Praticamente. Ho capito. Ma senta, perché hanno detto tutti che ce l'ha enorme? No, ma scusa, lei dice già che ce l'ha enorme. No, io, attenzione, c'è un video che dice ce l'ha enorme. Ce l'ha enorme. È riuscito a rovinare lo sketch. A metà sketch già ha detto come andava a finire. Tra l'altro non era fetch. Ah, lei è insieme a Massaro in questo tra momento. L'altro sì no, sono insieme allo squalo, ma stai attento che te una mozzicata nella... Simono prova a parlare pure voi. Comunque Simono che abbiamo scritto in fondo al mare. No, il fatto è che ogni tanto che Totò scritto, scusa? In fondo al mare. Ah, la canzone La sera notte. Certo, sì. Ogni tanto Totò, ma quando sente parlare questi dialetti pugliesi vicini ai campani, ricorda il suo passato napoletano e si inflette. Una volta stava facendo un militare da Sì, questo è il napoletano, però scusa. Ma scappato perché pure io, no, ma scappato perché pure io ho fatto un militare. Non ti ricordi, c'avevo l'armadietto quello con le pinne. Si distingue perché va la pinna del fuori. Comunque, capito. Ce l'ho enorme. Hai fatto finire tutte le cose, torno sott'acqua, ci te cose, chi t'è morto. Buonasera. Ma mi scusi, dove va? Ma perché non rimane? Secondo lei dove va? Le dico tre possibilità: in Gollin, in Mondale. Ma rimanga con noi, dai. No, non rimango con voi perché mi fate schifo. Buonasera. Va bene, io intanto direi che di no, attenzione. L'abbiamo in diretta. È uscito lo squalo. Dopo lo squalo partenopeo. Raccomando tutti parieri, perché sta per arrivare il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Fratelli. E qua c'è la concorrenza. Buonasera presidente, innanzitutto. Buonasera, tengo le palle. No, presidente, che esordio meraviglioso. Per mi sembra la cosa più importante. Tengo le palle un poco girate. E perché presidente? Ma che è successo? C'è... Berlusconi? No, stavolta ce l'ho un poco con Roberto Tumori. Che ro... Benigni, tumore benigno, sono maligni, sempre Roberto. Certo. Sì. Ma perché Roberto Benigni? Come ha fatto una bellissima lexio sulla intanto a quest'ora non si parla di sesso. No, quale sesso? Una lezione. Lezione. Non ha detto sesso, scusa. No, ha fatto una lexio, cioè una lezione sul quello di patriottismo puro. Una ragazza che ha problemi respiratori, la vorrei portare all'ospedale, fate bene Capodichino, no? Killer l'aeroporto. E allora? Lo puoi dire pure al microfono. Se c'è un microfono serve a qualche cosa. Presidente, per favore non si distraga con le ragazze. No, per carità, non faccia come il presidente del consiglio. Lei è il presidente della Repubblica. Io poi faccio dare il numero da Giovanna e me la porto dentro la Clio. Non presidente, so se per favore, che sua moglie è in ascolto. Mia moglie è comodissima perché o sto con lei o e mette corna a lei, finisco sempre nella Clio. Presidente, non, per non favore. Proprio... Allora ci dica perché alle palleggere, innanzitutto, e perché? Da chi? Chi le ha fatte girare? A me mi dà uno fastidio che il mio inno deve essere cantato da Roberto Benigni che arriva a cavallo. Ma, o Sanremo, ha fatto una bellissima lezione di patriottismo. O cavallo che si è mangiato tutti i fiori Sanremo, ma che stiamo cucchionando? Presidente! Cucchionando, è l'antico termine del bersaglio. Sì, antico termine di sti zorbi. Allora, sì, presidente. Ha detto zorbi. Zorbi si può dire. C'è anche la canzone dei Cranberries. Zombie quella era. Scusa, tengo la data capa un poco. Presidente, allora insomma la canzone sta finendo anche il suo tempo a disposizione, quindi ci dica un attimo. Mi sta tirando i piedi. No, presidente. Vabbè, io torno in caserma. Come torno in caserma? Ho deciso di tornare alla caserma, così imparo il napoletano che ha imparato lei. E appena si gira gliela mitica caserma Marcelli. Sempre marsigliese. Buona serata all'Onze Enfant della Paris. Grazie presidente. A lei. Va bene ragazzi, allora io direi di ascoltarci il brano dedicato a, che ci hanno chiesto appunto dagli amici di Totò, del nostro regista, che sì, se non sbaglio è un brano di Vinicio Capossela. Esattamente. Che si chiama Con una rosa. Con una rosa, esattamente. Vediamo se parte subito, se ha... Bello, perché i mezzi di Radio Centrale FM Italia è pazzeschi. No, sono ci sono pause. È colpa mia. Incredibile, guarda, stiamo parlando mezz'ora, già il pezzo era finito e noi ancora parliamo. Non è colpa mia, non c'è voglia di... È un cretino. Ascoltiamoci. Che è molto male. Con una rosa hai detto venimi a cercare. la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo stelo. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma è il fiore che da solo cresce nel rombo, bianco non è colore, rosso non è l'amore, il fiore solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore. Eccoci tornati, Andrea era andato a dormire di là nello riposino, io parlo tipo l'antico italiano, insomma. Sì, antico. Ma noi andiamo qui invece a roba dal vivo, invece di mettere Vinicio Capossela, con tutto il rispetto che piace anche a me. Abbiamo ragazzi, abbiamo carne, sentiamo l'odore di carne fresca e di musica viva. E adesso ci ascoltiamo un brano che dovrebbe mia, dire Andrea. Una presentazione del genere, meglio di un macellaio, sei veramente. Allora, avrete qua a ascoltare questo brano nuovo, che tipo il testamento d'un anno. Ora ci ascoltiamo. Notario Mezzapinna. Esatto, il buon Mezzapinna, nessuno sa se è perché. Vabbè, comunque ci ascoltiamo io, I Don't Know, Alanis Morissette, canta Giovanna, alla chitarra Alessio. Vuoi rompirla, vado a rompirla. Bella, inizio un brano. To know that I'm happy for you, I wish in love and by a the best for you both. Another version of me, you ship a verdict like me. Why she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And won't she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know why you told me you will be until you die, till you die? But you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to the nightmare or the gross sign there that you gave to me. Yo, yo, yo, I don't know. You see very well things look peaceful. I know quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I had to back you in the mirror. Oh, dinner. It was all slipping on face. I quickly, I was replaced. And that you're thinking of me when you fuck her. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. And you know. And every time you speak her name, that she know how you told me you owe me. Until you die, till you die. But you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to the all the gross sign there that you gave to me. Yo, yo, I don't know. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to remind you of the gross sign there that you get to me. Yo, yo, yo, I know. You gave that we made was unable to make it enough for you to be open wide. And you know, and every time you speak her name, does she know why you told me you won't be until you die, until you die? But you're still in life, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to remind you of the cross I bear that you gave to me. Yo, and I know, and I'm here to the nightmare. Oh, all the mess you left when you went away. It's not fair to remind you all the clothes I bear. They to get me. Oh, I don't know, yet I know. Ragazzi, ragazzi, ragazzi, quasi va a migliorare. Grandissima esecuzione di, del pezzo You Are a Know di Alanis Morissette. Complimenti ancora ad Alessio e Giovanna, bravissimi. Ha cantato bene Alessio, vero? Sì, sì, sì. Alessio, sei bravissimo, come tu hai fatto un gran solo di chitarra, anzi un grande accompagnamento ritmico, devo dire. Ma io direi di spararci subito un altro pezzo e io vorrei questo qui, proprio quello che abbiamo davanti. Sì. Torniamo all'epoca d'oro del rock and roll e del, diciamo, della musica britannica con i quattro ragazzetti di... Di dove? Di? Liverpool. Attenzione, gesto educatissimo, l'avete visto in streaming su politeia.it. Ci ascoltiamo Come Together. Cosa vuoi dire, Andrea? No, voglio dire che soprattutto con questo pezzo accontentiamo il buon Peppe, ecco, che vi fa ancora nel frattempo io ti chiederei di aprire il citofono mentre che prima che lo... Ragazzi, questo è il programma più casalingo del mondo. Io vi invito anche a venire qui a portare la pasta. No, perché poi magari suonano di nuovo mentre che loro cantano, esatto, è meglio di no. Esatto, allora ci anche ascoltiamo. Anche perché vorrei svelare, insomma, perché guarda il video si rende conto che siete dei vastasoni, perché mentre loro cantano e suonano e sono concentrati, voi parlate, gesticolate. Assolutamente. Guarda no. Quello come ce l'ho! Guarda quella com'è, non fatta, è vero, guarda quella nuda, è Andrea, è vergogna. Intanto arriva Claudio raffinatissimo. Claudio, ma sei allo stadio? No, Claudio, palla, no, Claudio, qui è una puntata raffinata, no, ti prego. Sì, sì, infatti. Comunque, se li vedi. Ragazzi, ci ascoltiamo del duo Lennon McCartney, in questo caso del duo Felice Meschino. Giusto. Come Together. Vai. Aspetta che silenzio. Vai, ragazzi, silenzio totale. Here come up the top, it come grooving up, slowly chow a boy, he won't holy roller, he got on here, down to his knee, got to be a joker, he just do what he please. When the ship's kite, he caught down for by, he got bonk a finger, he showed Coca-Cola, he say, I know you, you know me, one thing I can tell you, you've got to be free, come together, right now. Over me. Production, he got wallets and bar, he got on a cyborg, he own spindle cracker, he got a fee down below his knee. Oh, do any time and you can feel it, it seems, come together right now over me. Thank you. to be free. Come together right now. Come together right now. Come together right now. Over me. Eco hilly warning, he go muddy water. He want no to filter. He say annoying world, and no one is see. Go to big and look and go, it's so hard to see. Come together right now. Come together. Together right now over me. Super applauso, super applauso. Dai, sbattiamo i microfoni. Bravi, bravi, bravi, bravi. Complimenti, ragazzi. Parte anche un applauso. Sentivo, sai, tipo. Sono i fan che sono giù questi. Sì, sì, quelli sì, le salutate. Salutate, ci sono i fan. Ciao, ciao, ciao. Esatto, davanti a Piazza Duomo, davanti alla. Stanno staccando pure le lancette dell'orologio del Duomo per dire quanto vi vogliono bene. Sentiamo questo. Rifallo, rifallo. Così, Totò, prima tu vivevi nell'età della pietra, noi ti abbiamo portato la musica a Radio Centrale FM Italia. Veramente, vuol dire sbroglio. Sì, io ho sbrogliato, devo andarmi a cambiare le mutande. Cambiamoci, sì, insomma. Sì, no, cambiamoci, io mi devo andare a cambiare le mutande, non cambiamoci. Va bene, cambiati pure la testa che ci sei. Vabbè, sì, no, quella ti farebbe una cortesia. Comunque voi siete da internare, tutti e due. Questo sì, sì, no, io già sono internato. È una certezza con cui qui il postribolo qua dietro ci siamo consultati. Ma salutiamo i due amici del postribolo che verranno, non so, subito dopo di noi, giusto? Dalle 21 alle 22.30 i buoni Claudio e come si chiama lui? Che non saluta quelli che hai in studio, ascolta. Lo so, lui si chiama Riccardo, è un cretino, non lo... Claudio e Riccardo condurranno. Saluta chi ha in studio che dobbiamo andare in pubblicità. Ok, allora salutiamo e ringraziamo infinitamente con mille e mille applausi Alessio Meschino alla chitarra, che ci ha deliziato veramente con il suo riff. Grazie. Perfetto, l'abbiamo finalmente sentito, esiste. E Giovanna Felice, felice, felice, felice. Vi auguro tutte e due, sì, di fare una grande carriera nella musica. È stato un bel momento. Vi siete divertiti, speriamo, sì, con due deficienti, sì, non si può fare altro. Ringraziamo il mio collega Andrea, che oggi sono stato zitto, e salutiamo anche lo sciancato che ci sta ascoltando da Milano, come tutti gli altri ascoltatori si sono collegati sul sito e sui 97.5 che ci hanno commentato i bagagli.